Stato di Stefano Folli. L'inchiesta di Venezia, così trasversale ed equanime nei suoi bersagli dal centro-sinistra al centro-destra, insegna due cose. La prima è che è inutile limitarsi a parlare di una nuova Tangentopoli. Dopo un po' diventa una frase di maniera, retorica, e non aiuta a capire la vastità di un fenomeno che ha caratteristiche particolari legate alla realtà dell'Italia di oggi e non a quella di vent'anni fa. Il secondo aspetto parte di qui. Dopo aver preso atto che non esistono santuari e che la corruzione riguarda tutte le parti politiche, anche se ovviamente non tutti sono corrotti, bisogna intervenire con misure immediatamente applicabili, introducendo regole certe che garantiscano la trasparenza e diano sicurezza ai cittadini. Quasi nulla è stato fatto al riguardo. La politica degli annunci, se non è seguita dai fatti, finisce per allargare l'area grigia, la zona d'ombra dove fiorisce l'illegalità. Non è una critica a Renzi, che è appena arrivato, ma anche lui, anzi lui soprattutto, deve guardarsi dal promettere l'acqua limpida senza prima averla disinquinata.